Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. Smile without a reason why. È nato a Roma da genitori siciliani. Allievo di Pierpaolo Pasolini, nel 1976 pubblica il suo primo romanzo, Un borghese piccolo piccolo. Continua a scrivere romanzi, si affaccia anche al teatro, si afferma come sceneggiatore con Bellocchio, Bertolucci, Amelio, Benigni, con il quale scrive La vita è bella. Il suo ultimo film come sceneggiatore è Tutti al mare, diretto da suo figlio Matteo. Lui è Vincenzo Cerami. Siamo in democrazia, ti vuoi mettere la sveglia al collo? La metti, che ti vuol dire? Vuoi andare nel campo dei nudisti? Ci vai, mica tutto, oggi si può fare tutto quello che si vuole. Quindi cioè, è l'ideale. Quindi siamo tutti contenti, possiamo fare quello che vogliamo. Non esiste più lo scandalo. Nessuno si scandalizza più di niente. Oggi per riuscire a scandalizzare non si sa cosa fare. L'unica cosa che si possono fare è tirarsi le bottiglie d'acqua minerale in faccia durante le riprese televisive, le cose così, ma quindi il film è che va a cercare la creatoralità di personaggi che per un giorno vogliono stare in pace, vogliono un po' di sole, un po' di mare, farsi un bagno, giocare al racchettone, mangiare il pesce fresco e tornare a casa nei problemi di tutti i giorni. Allora la macchina da presa li aspetta, cioè, stai dentro questo chiosco, aspetta che arrivino queste persone qua. E li vede spogliarsi, li vede in un momento particolare, un momento in cui si vogliono riposare, no? Vogliono star bene, ecco, voler star bene. Quindi è un momento che siccome vogliono star bene sempre, però non ci riescono mai, se non proprio prendendosi un giorno al mare, ecco che io li aspetto, la macchina da presa si mette lì, aspetta che arrivano e si ristudia, si riguarda. Apri ombrelloni, va, oggi c'è il sole, gli dobbiamo spella a tutti. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare. Cazzo va sto cavallo? Oh, lui non ci sta. Allora tu, che farebbe? Chi? Te. Che farei? Sì, tu, che farei? Tra il realismo e il metafisico in salsa anche grottesca, come calibrare questi registri che forse nell'Italia di oggi ci sono? Sì, perché sono delle situazioni grottesche e patetiche che però vengono vissute con drammaticità e ci sono dei drammi veri che vengono invece vissuti come cose farsesche. Non c'è più un genere, diciamo, no? C'è il genere medio e in cui uno reagisce stancamente un po' a tutto. Questo è un peccato perché non c'è l'amor proprio, quella difesa dei, che devo dire la verità, le donne hanno di più degli uomini, non mai, no. Le donne ogni tanto tirano fuori grandi moti d'orgoglio, l'abbiamo visto ultimamente, si rivoltano rispetto anche, no, a questa immagine riduttiva, no, che si dà delle donne, che ridotte già da sempre, un po' ridotte al corpo, no? Ma adesso addirittura glorificando questa abitudine di vedere le donne in questo modo, così di non restare insensibile di fronte al fatto che una ragazzina di 18-19 anni, una bambina, insomma, perché subito, immediatamente farle capire che neanche riescono a capire, insomma, che subito penalizzarle calandole in un mondo orrendo, no? Loro non è che sono nate di volontà, sono state fatte nascere, e quindi è un grande peccato, io lo trovo un grande peccato, insomma, di togliere subito l'innocenza alle bambine, perché per me le persone sono bambine fino a 20 anni, poi dopo poi crescono un po', invece qui già si tende a farle diventare maggiorenni il più presto possibile. Fra poco si arriverà a 14 anni. Bella Teresina, È proprio una bella ragazza. E poi hai visto come è formata. Bella Teresina, È proprio una bella ragazza. Ci mancava pure questo. Mannaggia sta spiaggia, piena di zeppi, di spine, di vetri, di monnezza. Metti dentro la palla. Su, mettete a sede qua. Che ti sei fatta male? Mi è entrata una spina nel piede. Ma vedete, la leva nonna. Leva, lì. Ci sono anche voi, ci vedi bene. Sì, sì. Casotto era un piccolo film. Forse non ci si immaginava che sarebbe stato un film così grande. Perché Casotto, dopo 35 anni, è quello che è nel nostro immaginario e nella nostra cultura? Ma veramente quando abbiamo fatto Casotto, Sergio Citti ed io abbiamo voluto fare una cosa divertente. C'era un'idea che tra l'altro è anche l'idea di un cinema quasi scommessa, perché il film comincia con Ninetto Tavoli che cerca di accendersi una sigaretta sulla spiaggia all'alba la mattina. Gli rimane un solo fiammifero perché il vento glieli spegne tutti, vede una cabina, un casotto, entra dentro, finalmente si accende la sigaretta, esce e chiude la porta e la macchina da presa. Da quel momento rimane imprigionata dentro questo casotto e aspetta che arrivi la gente. Ecco, questo era... E quando noi scrivemmo questo film ci siamo divertiti, poi ci piaceva, insomma, però non andò bene, la critica non se ne accorse nemmeno, il pubblico un po' sì, un po' no. E era un film che costava molto poco perché era tutto dentro un casotto, però aveva un cast stellare che l'ha fatto praticamente gratis. E c'era Jodie Foster, Michele Placido, c'era Gigi Proietti, Paolo Stoppa, Ugo Tognazzi, Maria Angela Velato, Catherine Deneuve, non so quanti, Carlo Croccolo, insomma era. E questo cast così aveva un po' fatto impressione, anche perché Jodie Foster aveva appena fatto Taxi Driver, quindi era candidato all'Oscar, insomma, è una cosa miracolosa veramente. E poi, siccome ne parlavo male così, insomma, io neanche lo mettevo nel curriculum, vabbè, una delle tante cose fatte, finché un giorno ho incontrato Ghezzi che mi dice: tu hai scritto Casotto? Io dico: va bene, ma ho fatto tanti film, proprio quello, che te, ma sei proprio cattivo. Dice: ma come, quello è un cult movie, quello è un capolavoro, davvero? Dico, allora l'ho preso e l'ho messo nel curriculum. Dico, beh, se mi dici così, a me piaceva quando l'ho fatto, francamente, però se poi mi hanno convinto che era un film sbagliato, e invece poi piano piano è diventato, sono questi film magici, che poi dopo ti accorgi dopo tanti anni che hanno proprio, come dire, hanno acceso una luce sul nostro paese per un momento, e ti ha fatto vedere le cose che insospettabili, che poi col senno di poi scopri delle cose che magari lì nel presente non le scopri. Ti ricordi l'Italietta della fame? Tutta festa per la fine del regime. L'occhio magico alla radio trasmetteva la reclame con le pezze al culo e tanta dignità. Vorrei sapere cosa pensa di questo momento del cinema, perché è un momento strano perché ci sono alcune commedie che vanno benissimo e fanno degli incassi stellari, un altro cinema che sparisce. Guarda, quest'anno è una cosa magica, perché di colpo sembra quasi che questi film, di queste commedie, abbiano intercettato un bisogno degli italiani. Però io direi che più di italiani parliamo dei giovani, perché soprattutto i giovani vanno al cinema, e dai 40 anni in su sono già molti di meno, e i giovani ovviamente dov'è che si vogliono divertirsi, insomma, quindi preferiscono la commedia al dramma, insomma, no? Quelli sono i film, oppure la commedia, oppure invece il 3D o questi film molto costosi, effetti speciali. Un film drammatico medio così non credo che avrà un futuro difficile, il cinema drammatico, diciamo. Poi dopodiché andiamo a vedere questi film e diciamo benvengano, perché il fatto che rimette in moto, perché molti film, molte commedie hanno rivitalizzato il mercato, no? Il fatto che si rivitalizzi, che la gente comunque ritorni in sala e si allontani dal piccolo schermo e abbia bisogno del grande schermo, tutto questo porta bene. Poi teniamo conto che il grande cinema italiano è vissuto sulle molliche della grande commedia all'italiana, per cui Rossellini, Pasolini, Bertolucci, tutti questi intorno, con quegli avanzi che restavano della commedia italiana, che era un grandissimo mercato generalista, hanno fatto la storia del cinema italiano, insomma. Quindi per me, io saluto questo momento. Poi se andiamo a vedere bene all'interno, quello che a me dà un po' di dolore è che non voglio entrare nel merito se sono belli o brutti, ma è il fatto che non sono girati come videoclip. Questo che mi dà tanto dolore, perché sembra che la nostra storia del cinema, questi qui non hanno visto i film, che ne so, non vanno al cinema, perché sono girati, non ci sono piani d'ascolto, i fondali sono televisivi, non c'è nessuna cura della fotografia, non c'è nessuno spessore, nessuna profondità, i personaggi sono bidimensionali, molto abbattuta, così, un po' affrettata. E poi sono contento che vadano bene, probabilmente sono un po' naif da questo punto di vista, però bisognerà che da qualche parte venga recuperato il cinema. Insomma, il cinema è macchina da presa, è profondità, è decor, è lavoro sugli attori, è originalità, la battuta deve essere raffinata, non puoi buttare tutto via così. And the Oscar goes to Roberto! Really, I would like to thank everybody did the movie because without them I couldn't fly with this movie. Everybody who did the producer, the screenwriter Cerami. Sono giorni di grande mobilitazione per Cinecittà. Si è mosso anche Roberto Benigni, che lei ben conosce. Certo, ma è una cosa. Cinecittà è una nostra eccellenza assoluta. È stata la casa dei sogni italiano, e lì Fellini ci abitava dentro, Scola ci abitava dentro, tutti i registi hanno girato lì. Cinecittà è il simbolo del cinema italiano, e il cinema italiano è il simbolo della cultura italiana nel mondo. Il fatto che questa isola del sogno, questa isola felice in mezzo già ai palazzoni del Tuscolano venga completamente cancellata e al posto vengono costruiti altri palazzoni e fare la cementificazione di questo mondo dei sogni, lo trovo criminale. Questa proposta è da anni che viene fatta, da tanti anni. Ogni tanto arriva il palazzinaro che vuole prendere quell'area e costruire, e io temo che purtroppo questa volta ci riescano. La nostra voce in scena di oggi era Vincenzo Cerami. Ci ritroviamo domani con un nuovo appuntamento. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.